Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Bass drum. Ready? C'è una strada che ti porta a tutti i posti del mondo. Ci camminano i ragazzi con gli zaini sulle spalle. E anche noi oggi percorreremo una lunga strada, una strada importante e grande, un'autostrada proprio, che attraversa il nostro corpo e da cui partono altre vie di collegamento importanti. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Roberto Chiesa, direttore della cattedra di chirurgia vascolare all'Università Vita Salute Ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, come stai? Io benone, grazie. Professore, questa è già una buona cosa. Bene. Parliamo di strade e autostrade, però non è il momento degli aggiornamenti sul traffico, ma è il momento per conoscere più da vicino che cosa capita nelle strade e nelle autostrade del nostro corpo, per imparare soprattutto a fare una buona manutenzione. Che dice professor Chiesa? È un bellissimo paragone quello che ha creato. Devo dire, come al solito, siamo in diretta dalla sala operatoria, lo sa, quindi è molto interessante. Sì. Le più importanti arterie del nostro corpo, la più importante arteria è l'aorta, è la più grande autostrada, direi autostrada che parte da un punto di origine che è un casello importantissimo che è il cuore, passa, diventa arco dell'aorta in torace, diventa aorta toracica, quindi scende in addome, diventa aorta addominale dove si divide nelle due grosse arterie che vanno agli arti inferiori, le arterie iliache, per poi arrivare alle arterie delle gambe o in alto alle arterie delle braccia. Quindi è giustissimo il paragone, cioè sono strade importanti che si innescano su una grossissima autostrada fino ad arrivare a piccole strade periferiche che sono quelle che portano, le strade che portano sangue ai vari organi specifici. Professore, il problema però è che le strade noi le abbiamo sotto gli occhi, ci sono anche gli aggiornamenti e le previsioni sul traffico. L'aorta, di cui parliamo oggi, ma non solo, non si vede, non dà segni, insomma non abbiamo modo, se non attraverso delle indagini, di valutare la sua salute, però sappiamo che cosa la mette in difficoltà e allora io la inviterei a ricordarci, perché in parte li sappiamo, i fattori di rischio. Alcuni, come spesso accade, saranno modificabili e altri no, comunque è meglio conoscerli. Sono, allora, innanzitutto un fattore di rischio correggibile è un'alimentazione non corretta, cioè un'alimentazione a un ricco contenuto di grassi animali, questo sicuramente favorisce l'aterosclerosi. Secondo grosso fattore di rischio è la pressione alta, l'ipertensione mette continuamente sotto stress le pareti dell'aorta, le pareti dei vasi, inducendo una risposta che favorisce l'aterosclerosi. Terzo fattore di rischio significativo su cui possiamo incidere è il fumo, tutti lo sappiamo, però purtroppo continua a aumentare il numero delle persone che fuma. Fate il conto che ogni sigaretta che viene assunta da una persona c'è un aumento medio di pressione di 20 mm e un aumento di circa 20 o 30 battiti al minuto. Quindi pensate allo stress che viene indotto dal fumo al cuore e alla stessa aorta. Quindi, capite, sono tutti fattori di rischio estremamente importanti. E poi c'è la genetica. Sulla genetica non possiamo intervenire completamente, ma fino a un certo punto vedremo, possiamo intervenire anche sulla genetica. 800 24 0024, se volete intervenire, se volete parlare delle strade e delle autostrade che attraversano il nostro corpo, imparare con noi a fare manutenzione, a sottolineare i fattori di rischio e cercare di evitare quelli evitabili. Messaggi come sempre al 349 238 6666, ma ai numerosi nemici della salute delle arterie si aggiunge il traffico e con il traffico lo smog. Ricerche dimostrano che le arterie sono molto molto sensibili anche alla qualità dell'aria che respiriamo. Più l'aria è inquinata, più loro si irrigidiscono, se così vogliamo dire, perdono infatti la capacità di dilatarsi. In linea con noi il dottor Mauro Mocci, medico dell'Associazione Medici per l'Ambiente. Buongiorno dottor Mocci, bentornato. Buongiorno, grazie a voi. Dottore, allora, l'aria che respiriamo non solo non arriva solo ai polmoni, ma cammina, arriva, entra nelle vie che ci davate anticipatamente. E ci sono lavori scientifici che mettono ormai in correlazione questo aumento di inquinamento con, quindi parliamo di PM10 o altri inquinanti nell'aria, con la patologia aterosclerotica. Sì. E con eventi cardiovascolari come infarti e trombosi. E come succede questo? In realtà, se ci pensiamo bene, è un po' quello che succede col fumo di sigaretta, lo abbiamo detto. Che il professor Chiesa, certo, ricordava. Perché queste particelle sono talmente sottili che riescono a penetrare attraverso l'epitelio del polmone e vanno a finire nel circolo ematico, quindi vanno nel sangue. E hanno due effetti, un effetto immediato, uno diretto, diciamo, che addirittura si manifesta purtroppo entro poche ore dall'aumento, e c'è questa correlazione, aumenta l'inquinamento, aumentano gli eventi cardiovascolari, aumentano gli infarti. Quindi un'azione diretta di queste sostanze molto molto fini, che sono gas, sono dei metalli, che passano e provocano questa infiammazione immediata, sì, con addirittura un aumento della viscosità, questo lo hanno dimostrato parecchi lavori, il sangue diventa più viscoso, più denso, e quindi si formano più facilmente dei trombi. Questo è quello che succede nell'immediato. Poi abbiamo dei meccanismi indiretti invece, perché sempre queste particelle entrano nel sangue, vanno a localizzarsi nelle pareti delle arterie e delle vene, e lì provocano un aumento dell'infiammazione, perché liberano delle sostanze, attivano delle sostanze che si chiamano citochine, e queste provocano un'infiammazione, quindi sappiamo che quando c'è un'infiammazione, quindi i famosi, le difese antiossidanti, le famose liberazioni di radicali liberi, provocano un peggioramento di questa, certo, di questa situazione. Quindi è molto importante, e di recente ormai anche i cardiologi se ne stanno occupando, per esempio cito un convegno che ci sarà il prossimo 7 febbraio a Firenze, importante convegno a Palazzo Vecchio, proprio dove si parlerà di inquinamento urbano e patologie cardiovascolari. Dottor, perché ormai la documentazione scientifica, la relazione è assolutamente provata. Dottore, sull'inquinamento, insomma, noi da soli non possiamo fare nulla, ma possiamo comunque fare la nostra parte. Sì, io lo dico sempre, ci sono sempre degli spazi per riuscire a fare qualche cosa, e qualcosa non lo possiamo fare, non è un consiglio banale, ma quello di ridurre, e lo dobbiamo fare in modo particolare adesso, siamo in tempo di crisi economica. Riduciamo i consumi, perché se noi riduciamo i consumi elettrici, spegniamo un po' di più le luci che non servono, riduciamo il riscaldamento perché non c'è bisogno di temperature elevatissime, riduciamo il combustibile, perché tutte le volte che noi sprechiamo, quindi aumentiamo un pochettino i mezzi pubblici, camminiamo un po' di più, facciamo delle passeggiate, perché se noi riduciamo i consumi, perché tutto quello che è consumo aumenta l'inquinamento, e quello che aumenta l'inquinamento aumenta i danni alla nostra salute. E poi invece un consiglio casalingo, diciamo, sì, vogliamo rendere la nostra aria un pochettino più respirabile in casa, allora oggi mi sentivo di dare un consiglio agli ascoltatori, mettiamo qualche pianta in più, perché ci sono delle piante che possono assorbire l'inquinamento nella nostra casa. Ovvio, i comuni dovrebbero mettere più alberi in giro, perché anche loro hanno la loro parte, ma mettiamo delle piante che hanno dimostrato una capacità di assorbimento verso queste sostanze inquinanti, e sono semplici piante, sono la dracena, il filodendro, il ficus, l'aloe, il ciclamino, niente di particolare, la stella di Natale per esempio, aiutano ad assorbire gli inquinanti e quindi ci fanno stare un pochettino meglio, e poi anche l'aspetto estetico non guasta. Grazie al dottor Mocci per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, alla prossima, grazie. Professor Chiesa, noi torniamo ad occuparci della nostra orta, l'abbiamo localizzata, abbiamo parlato dei fattori di rischio e lei ha accennato già a uno in particolare, l'aterosclerosi, perché quando lungo le pareti dell'arteria si depositano delle placche che sono un po' come gli ingorghi sulle strade, con la differenza che poi gli ingorghi si sciolgono e invece le placche restano lì. Professore. Certo, le placche purtroppo sono l'evento tipico, l'evoluzione dell'aterosclerosi, formano queste placche che sono costituite da vari elementi, colesterolo, calcio, detriti cellulari, cellule rimaneggiate, formano proprio delle rilevatezze all'interno della parete arteriosa, e queste placche possono evolvere, capisce? Possono crescere fino a dare due meccanismi principali, uno l'occlusione del vaso, capisce? Cioè il vaso si chiude quando la placca lo chiude completamente, oppure le placche possono rompersi, la parte superficiale della placca può rompersi e da lì staccarsi elementi tipo, ripeto, calcio, materiale trombotico, che possono provocare lesioni ischemiche, infarti a distanza, sia a livello cerebrale sia a livello cardiaco, capisce? Quindi certo. La formazione della placca è sicuramente l'evento più negativo e l'esempio in cui sfocia l'aterosclerosi. Senta, professore, la aorta ce l'abbiamo tutti, ma ci sono delle persone che dovrebbero preoccuparsi di più della sua manutenzione? Sono dei segnali? Ne stanno arrivando diversi dai nostri ascoltatori, perché i dubbi ci sono, ad esempio il formicoli alla mano potrebbe essere un segnale di una circolazione che non funziona come dovrebbe. Intanto vi invito all'800 24 00 24. Professore. Formicoli alla mano in particolare indica qualcosa che c'entra con l'arto superiore, cioè potrebbe essere segno che non arriva sangue in completa quantità all'arto superiore, potrebbe esserci segno che esiste una parziale ostruzione di un ramo arterioso che vascolarizza il braccio, l'arto superiore. Poi ci sono particolari pazienti che devono curare la loro aorta, sono soprattutto i pazienti in sovrappeso, i pazienti obesi, i pazienti, come ho detto, che sono ipertesi, i pazienti che fanno poca attività fisica, i pazienti che hanno superato anche una certa età, perché ovviamente sino all'età media, 50 anni, così, di solito malattie vascolari importanti se ne vedono poco. Passati 50 anni, invecchiando le arterie, aumentano le malattie vascolari. Quindi tutto questo gruppo di pazienti, ovviamente intendo anche i fumatori, rappresentano una popolazione gruppo che ha che ha l'obbligo di studiare la situazione della propria aorta, capisce? Oggi si può fare. Giuseppe da Caserta e Michele da Rimini. Giuseppe, buongiorno, 800 24 00 24. Buongiorno a lei. Pronto? Noi ci siamo, Giuseppe. Sì, posso parlare? Certo, deve. Allora, io ho ascoltato alcuni amici l'altra sera che mi parlavano del problema del magnesio, che è un ottimo pulitore per quanto riguarda le placche di cui stavate parlando prima, il che mi ha sorpreso in modo particolare, perché dice che loro lo stanno prendendo da più tempo e hanno avuto degli effettivi benefici anche a livello di di questa pulitura delle arterie. È un vero spazzino. Non è che ci ho creduto molto. Giuseppe, in linea con noi abbiamo il professor Cesare Sirtori, che è presidente della Società Italiana di Nutraceutiche e preside della Facoltà di Farmacia all'Università di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei parlare poi con lei di soia, lupini, eccetera, però come si dice, lei cade a fagiolo, perché volevamo sapere se Giuseppe deve fidarsi dei suoi amici che utilizzano il magnesio come una sorta di spazzino, se c'è una letteratura scientifica che prova l'efficacia del magnesio, oppure se è un... Qui parlo da cardiologo. Sì. Il magnesio è un interessante elettrolito, un prodotto naturale, componente di molti sali, che può servire per le aritmie del cuore. Sì. Quindi viene utilizzato in certe miscele che non tutti adoperano, non tutti sono convinti, per esempio dopo l'infarto, quando ci sono queste aritmie post-infarto. È stato assaggiato in animali, in vari modelli di arteriosclerosi, non ha mai dimostrato nessuna efficacia, quindi non darei retta ai suoi amici. Un po' di magnesio fa bene sicuramente, probabilmente non fa neanche male. Male, però non illudiamoci. Meglio una dieta varia ed equilibrata, come sostenete da tanto tempo, però professore, io vorrei parlare con lei di nutraceutici. Noi preferiamo chiamarli per nome ad uno, anche se non possiamo citarli tutti perché sono tanti, ma oggi vorrei parlare con lei di soia, lupino, anche di riso rosso. Sono questi prodotti che possiamo assumerli sotto forma di alimenti o derivati, perché aiutano a ridurre il colesterolo e quindi evitiamo il rischio di quelle benedette placche. Nello stesso tempo danno elasticità a questa alle arterie, che sicuramente è una condizione importante, no? Renderle elastiche. Professore. Allora, ascoltavo con molto attenzione e interesse quanto diceva l'amico dottor Chiesa. Eh sì, è bravo, eh? Perché sì. Molto bravo. Vorrei tornare a un punto, proprio qualche settimana fa è uscito uno studio di colleghi di Houston che hanno dimostrato che quelli che hanno l'aneurisma, molto spesso un errore al cromosoma 15, il cromosoma come sapete sono 23, di cui 22 accoppiati, e questo errore raddoppia il rischio. Quindi sta diventando d'attualità, perché tutti i quotidiani si è parlato molto del fatto che possiamo vedere il nostro DNA per solo $1,000, in realtà un po' più caro, e quindi fra breve potremo identificare quelli che avranno l'aneurisma. Ci ho detto, lei ha osservato che l'aneurisma è un quadro molto particolare di arteriosclerosi. L'aorta ha il diametro di un tubetto di dentifricio. E non si chiude mai, è rarissimo che si occluda, però ha delle complicanze, delle patologie legate al fatto che l'aorta riceve quotidianamente decine di migliaia di urti dal sangue che viene fuori dal cuore. Sì. E allora ci sono due problemi, uno, come diceva giustamente lei, di arteriosclerosi, cioè di indurimento dell'aorta che la rende più vulnerabile a questi urti e porta all'aneurisma, si dilata a seguito degli urti che riceve. E secondo, l'aspetto elasticità. Allora, per ridurre la rigidità dell'aorta, benissimo, i trattamenti per ridurre la pressione, ridurre il colesterolo e quei trattamenti tutti noi conosciamo. Ma l'aspetto interessante è l'elasticità. L'elasticità è un fatto che viene poco rilevato a livello dietetico. Ora, l'elasticità è perduta a seguito di diete che sono ricche in metionina, un aminoacido che è presente negli alimenti animali, quelli che noi assumiamo più spesso. Basti dire che in certe aree del mondo dove non mangiano quasi proteine animali, l'aneurisma è pressoché sconosciuto. Quali sono allora queste diete? Giustamente diceva lei la soia, la soia che abbassa il colesterolo e abbassa i metionine, il lupino ancora meglio. Che è un po', no? È un po' la risposta più interessante alla soia. Più povero in metionina e abbassa molto il colesterolo e anche la pressione, per cui è molto più buono della soia. Il problema del lupino è che, attenzione, non i lupini, quelli che si mangiano, quelli che si trovano come bacche, contengono molto sale e sono da evitare. Invece esistono oggi alimenti, gelati, bistecchine, che sono assolutamente squisiti, hanno una diffusione per il momento crescente, ancora limitata, e sono un'alternativa alla soia anche perché hanno un gusto molto migliore. Quindi noi possiamo puntare sul lupino. È una carta vincente. Comunque sugli alimenti che siano poco ricchi di metionina, che si trova invece nelle proteine animali. È molto ricca nelle proteine animali. Quindi ricordate, cromosoma 15 e metionina. Grazie al professor. Sono i due messaggi. Grazie. Saluti all'amico Chiesa. Professor Chiesa, lei ha sentito il... Posso rispondere? Ma certo. Ma guarda, io devo farle i complimenti, Nicoletta, perché oltre alla sua bravura di riuscire a far venire Cesare Sirtori, sa chi è Cesare Sirtori, oltre ad essere mio caro amico, il più grosso esperto al mondo di dietologia alimentare per la aterosclerosi. Infatti noi abbiamo... Quindi è solo un onore sentirlo. Professor Sirtori tornerà? Ci ha lasciato con una risata. Grazie al professor Sirtori, e io vado a Michele che ci chiama da Rimini, 800 24 00 24. Buongiorno Michele, benvenuto. Buongiorno, innanzitutto grazie per la trasmissione, perché è abbastanza interessante come trasmissione. Sì. Ascolti, io ho una domanda. Inizialmente ho sentito parlare della pressione sanguigna, no? Sì. Allora io ho un problema di circolazione, soprattutto agli arti superiori e inferiori, ma soprattutto alla mano sinistra. Cioè, a volte mi sveglio al mattino che diciamo... È un po' addormentata, si sveglia dopo di lei. Le ultime zitte, diciamo, la mano sinistra sono addormentate. Faccio un minimo di sport, ho fumato per tanti anni, ma ormai sono cose che mi sono dimenticato, e faccio un minimo di attività, però questo problema qui volevo, se era possibile, risolverlo. Non lo so se il professor Chiesa riesce a risolverlo così con la bacchetta magica, però, professor Chiesa... Guardi, io le consiglio di fare un rilevamento accurato della pressione sugli arti superiori, oltre che sistemica. Se la sua pressione è normale, direi questo intorpidimento al mattino, questo problema di svegliarsi con intorpidimento alla mano non è vascolare, ma molto probabilmente è un problema di tunnel carpale, se la pressione è a posto. Quindi provi a fare questo semplice esame di controllo pressione, se le rimane il problema, si fa fare un'elettromiografia e vedrà che molto probabilmente è un tunnel carpale. Essere e benessere. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo, è traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere, e ci vanno nemici, famiglia contro famiglia, troppe macchine. Scusi se l'ho messa in mezzo a questo traffico. Traffico, eccoci di nuovo insieme. per una puntata dedicata alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e autostradale del nostro corpo. Ne siamo in ottime mani. In linea con noi abbiamo il professor Roberto Chiesa. Professore, noi invitiamo le persone che sono in sovrappeso, le persone che hanno una dieta ricca di proteine animali, i sedentari, i fumatori, quali altri ascoltatori possiamo... Gli ipertesi. I diabetici. Le persone che hanno avuto un caso in famiglia. Le persone che hanno una geneticamente sono predisposte, certo, che hanno avuto un caso in famiglia, a studiare la loro aorta. Vede, se, professore, se lei venisse tutti i giorni a suggerirmi, io sarei tranquillissima. Ma è semplice, perché oggi abbiamo delle tecnologie, soprattutto... per la aorta addominale, per gli arti inferiori, che è l'eco color Doppler, che ci permettono veramente di avere delle immagini in real time, cioè direttamente, che ci permettono di studiare perfettamente come sono i vasi. L'ecografia è un esame, come tutti sappiamo, incruento, non si ricevono raggi X, quindi può essere fatto ripetitivamente sempre e ci permette di avere un'ottima diagnostica per quello che riguarda l'aorta addominale, gli arti inferiori, mentre per la aorta toracica qui la cosa diventa un po' più specifica. Il torace ovviamente è una struttura difficile da penetrare, ci sono le coste, c'è tutta la gabbia toracica che chiude la aorta, quindi qui è necessario una risonanza magnetica, ottimo esame dove non si ricevono raggi e dove però il paziente deve entrare in una camera, essere custodiato, oppure la TAC. Oggi le TAC sono notevolmente evolute, esistono queste TAC a 64 strati dove l'esame viene effettuato in pochi minuti, 3 minuti, 4 minuti e dove la dose di raggi è veramente infinitesimale. Quindi vede, oggi esiste una buonissima possibilità per studiare l'aorta. Io consiglio a tutti, passati 50 anni e soprattutto alle persone che hanno quei fattori di rischio che abbiamo ormai ben definito, di sottoporsi almeno una volta nella vita a uno studio dell'aorta. Questo gli prolunga la vita, capisci? Questo prolunga la vita. E professore, io penso che sia importante individuarlo rapidamente, fotografare la situazione, lo stato della nostra aorta e nel caso evidenziare i rischi, perché per l'aneurisma conta sia la posizione che la dimensione. Certo. Allora, l'aneurisma c'entra la posizione e la dimensione. La sede più frequente di origine dell'aneurisma è l'aorta addominale. L'aorta addominale si intende l'aorta sotto il diaframma e più precisamente al di sotto delle arterie renali. Questa è una posizione che per la struttura fisico-chimica delle pareti l'aorta tende a cedere, è la zona dove esiste meno tessuto elastico si può ammalare più facilmente, quindi l'aorta in questo punto si dilata. La seconda sede è l'aorta toracica, terza è l'arteria poplita. L'arteria poplita è quell'arteria che passa al di dietro del ginocchio, capisce? Sì. E quindi è un'arteria, una sede che può frequentemente dilatarsi, ma non allarmarsi. Innanzitutto le dimensioni, ormai ci sono dati standard importanti, sino a 4 cm, parlo di aorta addominale, l'aneurisma può essere tenuto con buona tranquillità sotto controllo. Tra i 4 e i 5 centimetri bisogna cominciare a pensare al trattamento. Oggi un paziente che mi si presenta con 5 centimetri di diametro va trattato. Va trattato perché? Per evitare rischio di rottura, capisce? Assolutamente. Abbiamo in linea con noi Margherita da Bari. Buongiorno Margherita, benvenuta. Buongiorno, senta, io ho bisogno di fare una domanda. Nel caso in cui l'aneurisma dell'aorta, non addominale ma toracica, raggiunge i 6 cm l'aorta, bisogna trattarlo o è necessario fare un intervento? A 6 cm l'indicazione è chirurgica in aorta toracica. Cioè, va trattato. Poi vedremo in che modo trattarlo. Però 6 cm l'indicazione per il trattamento. E intanto nel frattempo, intanto che voi continuate a chiamare l'800-24-0024, vi daremo delle indicazioni precise. Noi continuiamo a insistere sulla prevenzione, sulla riduzione dei fattori di rischio. Vogliamo evitare che le nostre arterie abbiano degli scossoni, abbiano dei nemici evitabili, e uno di questi, il professor Chiesa ce l'ha detto all'inizio, è il fumo. Molti hanno smesso, stanno cercando di farlo, alcuni ci stanno pensando. Smettere, lo sappiamo, non è facile, ma è una scelta sicuramente vantaggiosa. C'è chi riesce a farlo da solo e chi si affida ad un libro, ad un medico, ad un cerotto, ad un chewingum, ma anche la ricerca dice la sua. I prodotti antinicotina come cerotti, gomme da masticare e spray per smettere di fumare non funzionano. A sostenerlo è uno studio condotto dai ricercatori dell'Harvard Center for Global Tobacco Control e dell'Università del Massachusetts di Boston, pubblicato sulla rivista Tobacco Control. I ricercatori hanno seguito 1916 individui adulti, inclusi 787 che all'inizio dello studio avevano da poco detto addio alle bionde. I volontari sono stati intervistati in tre periodi, con un intervallo di 2 anni ciascuno. Ai partecipanti è stato chiesto se avessero usato una terapia sostitutiva con nicotina, se avessero smesso di fumare o ricominciato. I risultati hanno mostrato che per ogni finestra di tempo considerata, un terzo degli ex tabagisti aveva subito una ricaduta. E allora che si fa? Queste notizie generano, queste ricerche generano abbastanza un po' di confusione, no? Ci si schiera. Io vorrei leggere questa ricerca con un esperto, il dottor Roberto Boffi, che è in linea con noi, pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori, responsabile del centro antifumo. Buongiorno dottor Boffi. Buongiorno, che cosa dice? Nicoletta. Che cosa le dice questa ricerca? Allora, servono o non servono? No, beh, non è, il problema non può, non dovrebbe essere posto in questi termini, secondo me, anche se capisco che possano, queste notizie possano un po' generare confusione e anche apprensione nei fumatori della serie ormai il mio destino è segnato, non ce la farò mai a smettere. No, non è così. È uno studio interessante, tra l'altro su una popolazione molto ampia di soggetti, tra l'altro però solo intervistati, quindi già la prima cosa, un primo limite mi verrebbe da dire di questa pubblicazione è che non sono stati utilizzati dei marcatori per verificare se uno fuma o meno ancora o se ha ridotto, se dice la verità, sì. Come il monossido di carbonio di cui abbiamo parlato tante volte, che viene fatto nei centri antifumo più validati, quindi fidandosi un po' di quello che dicono i fumatori, e conferma che smette di fumare è un percorso, è una salita che io dico sempre, no? Facendo un esempio, può essere anche costellata di cadute, allora bisogna rialzarsi, è una patologia cosiddetta recidivante per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi è meglio affidarsi a dei professionisti, a qualcuno che ci possa aiutare, con farmaci o senza. Ecco, non esiste la bacchetta magica, quindi questo studio non fa altro che confermare questo dato. Allora, professionisti, io ricordo ai nostri ascoltatori che ci sono i centri antifumo, possiamo utilizzarli, dovremmo utilizzarli di più. C'è un numero verde 800 55 40 88, che è attivo da lunedì e al venerdì dalle 10 alle 16, dove si può chiamare e avere il nome del centro antifumo più vicino. Dottor Boffi? Sì, assolutamente, affidarsi, la prevenzione è una cosa seria, quindi va fatta in maniera seria, va con impegno e con la giusta, con i giusti metodi, no? Possono esserci farmaci adatti a noi, la terapia sostitutiva nicotinica è una signora terapia, certo queste persone con dei progetti che erano stati fatti in America probabilmente avevano preso queste medicine da soli, senza un supporto, senza il cosiddetto counseling, e quindi preso così, siccome come dicevo prima non ci sono soluzioni miracolistiche, non funziona. Però con un consiglio medico, questi o anche farmaci più forti come la vareniclina sono sicuramente utili, ma questo non lo dico solo io, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E il professor Chiesa ci ha spiegato proprio subito in apertura di puntata quanto danneggia una sola sigaretta, vero professor Chiesa? Certo, non ha avuto proprio... Purtroppo lo vediamo quando chirurgicamente apriamo i vasi dei pazienti che fumano. La situazione è sicuramente in netto peggioramento rispetto a quella dei pazienti che non fumano, capisce? L'aterosclerosi è molto più evidente. Andiamo a salutiamo il dottor Boffi, grazie dottore per essere stato con noi. Grazie a voi. Il professor Chiesa l'abbiamo catturato fino al termine della nostra trasmissione, per cui rimane con noi. Adesso, a proposito di strade, andiamo a sentire gli aggiornamenti sul traffico, quello vero, 800 24 00 24, se invece volete parlare del traffico delle vostre arterie. Essere e benessere. Professor Chiesa, a proposito di traffico, c'è da augurarsi che sulla nostra rete autostradale, su quella rete autostradale e stradale del nostro organismo, il traffico vada un po' meglio di quello raccontato dalle nostre informazioni. Una batteria di domande, iniziamo con Aurora dalla provincia di Modena, Gabriele e Antonio. Buongiorno Aurora. Buongiorno. Sì, io volevo chiedere se, essendo ipertesa, ma controllando questa ipertensione con i farmaci e per fortuna aumentando il tempo di camminata, diminuendo un pochino di peso, questi farmaci sono riuscita a dimezzarli e usando una compressa di bisoprololo, sì. Si possono comunque avere i danni da questa ipertensione. Quindi se l'ipertensione è controllata anche con i farmaci rimane un fattore di rischio. Gabriele da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sì. Invece volevo proporre il mio caso nel senso che mio papà ha altri due fratelli, lui e un suo fratello hanno avuto un aneurisma cerebrale e l'altro fratello invece un aneurisma all'aorta. Mi chiedevo se ci fosse qualcosa di, se è possibile che ci sia qualcosa di ereditario, oltre al fatto che questi tre fratelli sono tutti stati dei grandissimi fumatori. Grazie. Quindi volevo sapere se c'era qualche cosa che sulla potevo fare. Sulla familiarità, certo. Gabriele, Antonio d'Alessandria, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, professor Chiesa. Io volevo porre questo quesito. Io ho 46 anni e non sono sovrappeso. Non fumo, però soffro di sbalzi di pressione, ho la pressione bassa mediamente, però ogni tanto ho questi picchi improvvisi e in particolare quando ho questi picchi risento di quello che si diceva, cioè fastidio al braccio sinistro, fastidio all'addome, come una ripercussione di una situazione di forte stress, forte emotività. Sì. E volevo un consiglio in merito, soprattutto considerando che ho gli esami del colesterolo nella media. Insomma, lei è quasi perfetto, ma come tutti ogni tanto qualche piccolo disturbo lo avverte. Grazie ad Antonio. Allora, professor Chiesa, Aurora. Aurora. Benissimo, controllo della pressione con farmaci, questo è quello che si deve fare. Il suo rischio assolutamente può rientrare nel rischio della popolazione normale, tuttavia la invito a mantenere serrato il controllo sulla sua aorta. Quindi bene, ma mantenere il controllo. Signor Gabriele, Torino, papà. Mamma mia, lei se l'è segnati? Lei se l'è segnati o va a memoria? Memoria. Fantastico. Gabriele, papà e fratelli con aneurisma. Non mi ha detto quanti anni ha, signor Gabriele. Non ce l'ha detto. È fondamentale a questo punto un controllo di tutti le sedi a rischio per aneurisma, soprattutto se è passati 50 anni. Visto una genetica così significativa e visto quello che ci ha detto Sirtori sul cromosoma. Ecco, quindi soprattutto questo invito è valido per tutte le persone che si riconoscono nel caso di Gabriele, mentre Antonio è quasi l'uomo perfetto. È perfetto, la pressione è a posto, il colesterolo a posto, direi è un'ipertensione labile, soprattutto su base emotiva. Quindi io direi che un buon controllo pressorio lo fa rientrare assolutamente nel range delle persone normali. Professor Chiesa, nel caso si arrivasse ad una diagnosi di aneurisma e che questo aneurisma per la posizione, soprattutto per la dimensione, richiedesse un intervento, le strade sono, a proposito di strade? Ah, innanzitutto, per tranquillizzare chi ci ascolta, oggi la chirurgia dell'aorta dà dei risultati assolutamente meravigliosi. È una chirurgia che ha avuto un passo avanti negli ultimi 30 anni spettacolare, quindi è una chirurgia che dà veramente buoni risultati. Abbiamo due possibilità e le due possibilità dipendono dalle dimensioni dell'aneurisma e dall'età del paziente soprattutto. In un paziente giovane, in un paziente che ha attorno ai 60 anni, tendenzialmente oggi offriamo ancora una chirurgia aperta ricostruttiva, cioè intervento, apertura dell'addome, proprio asportazione dell'aneurisma e ricostruzione con una protesi. Buonissimi risultati, degenza 5 giorni, 6 giorni post-operatorio. E siamo quasi nuovi. Entro un mese il paziente rifà le proprie attività assolutamente nello stesso modo. Paziente un po' più anziano, paziente con qualche comorbidità, problemi cardiaci, problemi respiratori, talora problemi di sovrappeso cardiaco, sovrappeso fisico alimentare, io direi la via endovascolare ci dà altrettanto degli ottimi risultati. L'endovascolare consiste nell'isolamento di un'artera della gamba e attraverso questo condotto si risale sino all'aneurisma, dove viene rilasciato all'interno dell'aneurisma una protesi che esclude l'aneurisma del circolo. Io vorrei chiudere con il dottor Pier Giorgio Chiereghin. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta. Autore di Farmacia Verde, manuale di fitoterapia. Dottore, abbiamo veramente 2 minuti e mezzo, ma io vorrei raccomandare ai nostri ascoltatori l'utilizzo di alcune erbe che aiutano a mantenere l'elasticità proprio delle pareti delle nostre arterie e di rendere il sangue, metto le virgolette, più fluido, scorrevole, quel traffico senza intoppi. Quali sono queste erbe, dottore? Guardi, per nostra fortuna sono delle erbe facili da reperire, ma di grandissima efficacia. La più importante è l'aglio. Sì. È il vero cardine della dieta mediterranea, come tutti sanno, assieme a peperoncino e olivo, ma è molto, pochi sanno che è molto efficace nella prevenzione dell'arteriosclerosi, perché riduce i livelli di colesterolo, inibendo fino al 50-75% la biosintesi di questa sostanza. Quindi andiamo di bagna cauda, bruschette, eccetera. E di conseguenza riduce la formazione delle placche ateromatose. Come si ottiene questo? Anche semplicemente ingerendo uno spicchio d'aglio ogni giorno. Però la lituccio, dottore. La lituccio si può risolvere. Come? Perché basta masticare assieme, dopo aver ingerito l'aglio, basta masticare o un chicco di caffè, o un chicco, un seme, diciamo meglio, di melaleuca, ma soprattutto più facilmente a casa, insomma, del prezzemolo, dai. Del prezzemolo, facciamo un aglio e poi subito un prezzemolo e dovremo, potremo baciare. Altre piante? Oppure l'aglio al mattino e ingerirlo con del latte, ecco. E lì. Però in ogni caso esistono anche delle compresse polverizzate di questo aglio e sinodore. Ecco, io queste le preferirei, perché non che metta in dubbio le proprietà del prezzemolo, del chicco di caffè, eccetera, però non sempre funzionano. E per incontri ravvicinati, insomma, questo è importante. Abbiamo ancora un minutino, perché Roberto Scaltritti è molto rigoroso, dottore, per parlare magari del biancospino. Del biancospino, ma il biancospino è la pianta del cuore, è la pianta che rasserena, direi, e distende il cardio attivo, agitato, quello che soffre di battiti, palpitazioni, agitazioni, e certo questo può ripercuotersi anche sulla salute della circolazione. E il biancospino, noti che è la pianta in assoluto più atossica. Ecco, quindi noi che abbiamo chiuso 3 volte al giorno sono alla portata di tutti. Ecco, noi abbiamo proposto un rimedio un po' hard, l'aglio e il biancospino, una pianta atossica. Grazie al professor Chiesa che ci ha accompagnato per tutta l'ora. Professore, grazie, spero di sentirlo presto. Grazie, complimenti, opererò mangiando un po' d'aglio. Grazie al dottor Pier Giorgio Chiereghin, autore di Farmacia Verde, manuale di fitoterapia ed agricole. Io vi aspetto domani con aglio, senza aglio, tornate.